In scena la Via del Teatro, il sipario che si alza con la nostra sigla George Benson Broadway all'ottava edizione Agorà, che seguiamo la stagione teatrale 2023-2024, l'importanza del teatro nella nostra pianura, a Castello d'Argile, al Teatro La Casa del Popolo, sarà l'appuntamento, come ho detto, per domani sabato 2 dicembre alle ore 21. Gypsy Lady 1646 a cura di Atelier. Sì, e con noi abbiamo chi ha portato in scena, chi ha avuto in questo caso una co-curatela per quanto riguarda il teatro, con Fiorenza Menni e con Andrea Mochi Sismondi, che è qua in diretta telefonica con noi. Super Mattiniero, un piacere ritrovarti. Buongiorno, buongiorno Andrea. Buongiorno Willy. Senti che bella voce squillante che hai, mi fa proprio piacere. Guarda, allora, Gypsy Lady, ovviamente gitani, la tradizione rom, sinti e quant'altro che si perde. Già qua c'è una data, 1646, non vogliamo assolutamente perderla, anzi saperne di più. Sono rimasto un pochettino così a grandi linee in tema di questa narrazione teatrale, Andrea? Sì. Assolutamente, allora la 1646 è la data di questo testo che si chiama Signorina Zingaretta, che Florido De Silvestris pubblica inserendo all'interno per la prima volta in Italia il romanè scritto. Okay. Il romanè è la lingua attualmente parlata da Rom e Sinti, ma che storicamente deriva dalle forme popolari del sanscrito, proprio affondando le radici nel nord dell'India, da dove le popolazioni rom e sinti sono partite secoli e secoli fa. Sì, spostandosi verso occidente, certo. Sì. Esattamente, e il lavoro che proponiamo domani a Castello d'Argile parte proprio da questo testo seicentesco, per farne naturalmente a nostro modo una mise en espace musicale, ritmica. Non sarà certo una messa in scena, ma sarà un lavoro sul testo e sulla costruzione ritmica e musicale rispetto al testo, collegando questa data del 1646 a quella del 1422, quindi 600 anni fa, che è il primo arrivo, la prima registrazione ufficiale dell'arrivo dei Rom a Bologna, il primo bambino Rom che nasce mentre quelli che venivano chiamati egiziani erano accampati intorno a Porta Galliera, ed è un momento molto interessante, perché è il momento nel quale le cronache locali raccontano di questo rapporto, che è un rapporto di curiosità, di interesse, di diffidenza, certo. di reciproco, diciamo, annotarsi. Il primo ritrovarsi a Bologna è stato nelle adiacenze di Piazza di Porta Galliera, e siamo nel 1422. Il Duca Andrea, con il seguito dei suoi 100 egiziani, così sono stati definiti nell'immediato. Ma questo, ad esempio, non lo sapevo ed è molto interessante questo lavoro di ricerca. Tra l'altro è un lavoro di ricerca estremamente corposo, perché vedo che ci sono tante collaborazioni. Ci puoi dire qualcosa di più, Andrea? Ma sì, guarda, noi appunto sono 20 anni che lavoriamo insieme a compagni e colleghi Rom e Sinti, e con persone che studiano il rapporto fra Rom, Sinti e Gagi, cioè tutti coloro che non si definiscono tali. E da un nostro viaggio fatto a Shutorizzati, che è la municipalità Rom più grande del mondo nel nord della Macedonia, tornando da questo viaggio di primi anni 2000, abbiamo iniziato a confrontarci e a lavorare con il gruppo di antropologia dell'Università di Verona, che si riuniva, adesso è fuori dall'università, ma è un punto di riferimento intorno a Leonardo Piasere, e questo seminario di studi Rom. E poi abbiamo iniziato a lavorare con le associazioni Rom e Sinti, con il Movimento Catanei, Istituto di Cultura Sinta. Sono tantissimi i compagni che ci sono vicini in questo percorso, perché è un percorso che affonda in questi primi incontri del 400 per andare anche a smontare e a decostruire alcuni stereotipi di questo rapporto. Sì. No? Ed è molto interessante da questo punto di vista, perché il modo in cui queste popolazioni vengono viste nel momento nel quale entrano in relazione con le popolazioni più stanziali della penisola italica è rivelatore rispetto a tante cose che accadranno dopo, no? Questo il lavoro di domani mette al centro lo stereotipo, se vuoi, massimo e più lontano dalla realtà, che è quello della zingara rapitrice, che era al centro delle commedie zingaresche quattrocentesche, e che è la personificazione di una grande paura delle popolazioni stanziali, ma che per esempio non ha assolutamente nessun fondamento di verità. Pensa che c'è una ricerca della Fondazione Migrantes che ha fatto un'analisi di tutti i pronunciamenti giuridici degli ultimi 20 anni sulle accuse, per esempio, di tentato rapimento di minore da parte di Rom e Sinti, e non c'è stata una condanna, un rinvio a giudizio, ma tantissime denunce, quindi in qualche modo veramente capaci di addensare intorno a sé il fascino di una vita errabonda, vagabonda, se vuoi questo stereotipo positivo, anche questo molto lontano dalla realtà, e l'inquietudine e la paura. Quindi è veramente molto interessante questa personificazione estrema dell'altro. Sì. È la paura. È la paura della popolazione, intanto nomade, per cui già di per sé, che come hai detto tu, poi andremo ad analizzare in maniera più approfondita che cosa significa tutto ciò e perché. La paura di quello che deriva dalla xenofobia, dal diverso, e cerchiamo di sradicare lo stereotipo con questa narrazione che fonda addirittura dal 1422 un percorso storico assolutamente importante con Gypsy Lady, ispirato, bella la traduzione, signorina Zingaretta, ci sta Gypsy Lady, più contemporanea. Sì, siamo appunto, è un lavoro diciamo di incastonamento nel contemporaneo di alcune questioni, perché poi non siamo così lontani, cioè infatti, tutti i nonni degli amici di nostro figlio ancora gli dicevano: se fai il cattivo arrivano gli zingari e ti portano via, sì. È ancora una cosa che ancora adesso incredibilmente esiste. Certo, questi sono aspetti che tra l'altro nella parte più negativa vengono tramandate, a volte anche così diventa, il problema è che diventa normalizzazione dopo, hai capito? Certo. E questo è oltre che preoccupante. Approfondire per conoscere la realtà culturale nello spettacolo, nell'arte, nell'espressione teatrale, nella musica è, direi, a dir poco fondamentale, per cui io, anche senza aver visto lo spettacolo, già vi do il merito di questo grande impegno e grande lavoro per noi, per tutte e per tutti, per aprire un po' la mente e per conoscere di più. Interessante l'approfondimento sulla lingua, del quale appunto le etimologie, le tradizioni linguistiche, il cosiddetto verbo, ne sono appassionato. Se possiamo ascoltare un po' di musica, Andrea, torniamo tra pochissimo, perché vorrei saperne di più e sicuramente non solo io. Puoi restare molto volentieri. Grazie, certo. A tra poco. The plains were kind of low that day over the palms of Inglewood. I looked upon what God had made and saw that it was very good. Now she was like water for chocolate, I was ice cream and snow. English was my native song, dig, Spanish was her flow. Her name was Esperanza. Far away from home, she had a big layover. May I suggest we roam? Spanish on her lips, English on my tongue. But never trust the words to say what the heart knows all along. Baby, let's get it on. Baby, let's get it on. Baby, let's get it on. The sand was soft beneath my feet. Sunset had a gleam. A lemon sky like nectarine and the color of the sea. Blue like the glasses, salt and coronas, a lime and a rose. A blanket by the ocean side as the water kissed our toes. Her name was Esperanza. Long way from home, we spoke in looks and glances. A touch became our poem. Spanish was her native flow, English was my song. She took the words straight from my lips and nothing right was wrong. Baby, let's get it on. Baby, let's get it on. Get it on. Get it on. Get it on. Get it on. ho voluto portare qualcosa, insomma, di stereotipato, troppo tipico, perché appunto è un percorso tutti i tempi, seppur affonda le radici che dobbiamo assolutamente conoscere dal 1422 fino ai giorni nostri. Gypsy Lady, il brano è Esperanza, che parte con questa entrata di chitarra che ricorda Django Reinhardt, a proposito di musicisti che hanno queste origini. Il brano è Bluesium per Telarc Record. Che va a sfumare, rimettiamo la nostra base on Broadway per quanto riguarda il teatro, ricordando che è domani sabato 2 dicembre 2023 alle ore 21, Teatro La Casa del Popolo in via Matteotti 150, Castello d'Argile, Bologna. Ricordo Castello d'Argile di snodo tra la pianura occidentale e quello che può essere una comunicazione verso il Ferrarese, tra cento in una micro sensazione geografica non da sottovalutare. A Tegliersi, Gypsy Lady 1646, con noi Andrea Mochi Sismondi. Ci sei? Hai ascoltato un po' di musica? Ti ho distratto, spero di no. Ci sei? Ah beh, no, assolutamente, okay. Anzi, mi dai là proprio per riprendere un brevissimo squarcio sulla parte musicale dello spettacolo di domani sera, che appunto per noi è proprio l'idea di, anche lì, di attraversare la meraviglia della musica manouche, ma di uscire dal concetto folcloristico. Quindi ci sarà Esma Regetova, che è fantastica nella sua capacità emotiva di portare dentro la profondità degli attraversamenti delle popolazioni rom, la bossa dorata del Rosenberg Trio, e che sì, insieme alla rielaborazione, alla composizione elettronica di Vincenzo Scorza, che insieme a Fiorenza è sempre con noi nella costruzione musicale dei nostri spettacoli. Quindi ci sarà un attraversamento di questi elementi che saranno basati proprio sulla costruzione ritmica del testo. Immaginate questo lavoro sulla lingua seicentesca, italiana e romanè, come se fosse una partitura, e all'interno di questa partitura la parte musicale è assolutamente centrale. Quindi andato tanto in là come idea, così assolutamente. Anzi, questa idea di lavorare sulla musicalità zitane, ma allontanandosi, diciamo, dalla stereotipizzazione, perché poi se noi pensiamo a rom e sinti, immediatamente pensiamo a rom e sinti che ballano, che cantano, nell'immaginario a volte anche positivo, no? Certo. Dello zingaro. E a noi piace mettere in relazione questo con il rom che parla, che è il rom che esprime, il rom filosofo, il rom che vede, la rom e la romni, che vede la vita attraverso il suo sguardo e la sua esperienza. E questo testo è fantastico da questo punto di vista, perché da una parte ti porta dentro lo stereotipo, dall'altra denota una conoscenza della vita dei rom e sinti nel 600 e attraverso la conoscenza della lingua. Quindi certo, ci sono tutti e due livelli, dall'esterno e dall'interno, e per questo è così interessante da attraversare. Sì, è fondamentale, tra l'altro nella tradizione manouche arriviamo nella Francia, in lingua d'oca, territorio dove la popolazione gitana ha avuto un'importanza fondamentale. Mi collego a Etin Arcadia Ego, quello che si dice, no? Dove poi fu esule lo stesso Cristo, in una realtà che ci vede dai templari e una visione alternativa, che fu accolto appunto da popolazioni gitane. E si dice, ma chiaramente non voglio risultare blasfemo, di una figlia, Marta, e guarda caso la patrona delle popolazioni gitane, Santa Marta. Comunque, che adesso sto facendo un po' di divagazioni esoteriche sulle quali non ho ovviamente certezza, però delle note storiche danno questi collegamenti, per cui insomma ho voluto citarle, riportarle, visto che stiamo parlando in maniera quanto mai estesa, da Gypsy Lady fino al passato più profondo. Stavi dicendo, scusa, ti ho interrotto. No, bene, mi ricollego ad un punto di vista storico del territorio, quindi questi temi che stai affrontando, perché anche il fatto di essere a Castello d'Argine, nella zona di Castello d'Argine, Cento e Pieve di Cento, non è un caso, perché se nel 1422 i Rom arrivano a Bologna e ne parlano le cronache locali, e l'anno scorso ne abbiamo festeggiati 600 anni con una targa messa in Porta Galliera. Poi è interessante perché Porta Galliera, perché poi lì c'erano le rovine della Porta di Galliera che era stata buttata giù durante una sommossa, quindi era un luogo di scarica tra l'interno e l'esterno, una zona liminale come quelle dove spesso vengono posti in questo momento Rom e Sinti. Ma dall'altra parte, verso la pianura, un altro episodio storico è centrale nel rapporto, perché proprio a Cento, nella Rocca di Cento, nel 1940 vengono rinchiuse tre famiglie di Rom, prima di essere poi mandate nel campo di concentramento di Boiano, dove venivano poi, appunto, andavano incontro all'orrore. Quindi, diciamo, sono questi due estremi di un rapporto che si radicano anche lì in maniera abbastanza forte. E essere vicini alla Rocca di Cento, cioè il luogo in cui vengono bloccate mentre stanno passando queste famiglie, è importante, è significativo, è una cosa che ci fa molto. Infatti entra anche all'interno della drammaturgia questa presenza territoriale, perché prima della mise en espace c'è proprio una cavalcata di pensiero in cui io in scena accompagno il pubblico un po' attraverso questi sguardi, queste visioni sui rapporti che abbiamo parlato anche noi. Sì, intanto errata corrige, perché io faccio tanto, ovviamente la confusione, o un attimo così, sapete, tra la regia, la selezione musicale, la diretta telefonica, non so come mi sia venuto in mente il nome Marta, che tra l'altro è un nome bellissimo, ma è Santa Sara, scusate, perché ho un collegamento tra questi due nomi, ed è stato però... È molto biblico come collegamento. Hai capito? Esattamente, però riconosco i miei errori e il mio essere pasticcione, per carità, quindi a volte anche l'entusiasmo di voler dire tante cose, capitano questi inciampi. Santa Sara, patrona appunto di Rom, Sinti e Gitani. Ebbene, io direi che a questo punto, correggendo questa mia svista, sabato 2 dicembre 2023 alle ore 21, Teatro La Casa del Popolo, via Matteotti 150 a Castello d'Argile, Gypsy Lady 1646, Atelier. È uno spettacolo con la produzione Agora, arrivata all'ottava edizione, di e con Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi, che è qua al telefono con noi e che ringrazio tantissimo per questa conversazione e per questi contenuti, direi assolutamente, anche usando un eufemismo, interessanti. Per cui grazie e una buona giornata. E grazie a te. Grazie a voi, a domani sera e buona giornata. Grazie, ciao. Dopo questa mia svista, che non riesco ancora a comprendere come mai, probabilmente un legame biblico tra i due nomi mi ha dato confusione, ok, mi autoassolvo, basta, ricordando che domani, sabato 2 dicembre 2023 alle ore 21, Teatro La Casa del Popolo, via Matteotti 150, Castello d'Argile, ovviamente Bologna, Gypsy Lady 1646, Ateliersi è Agora, arrivata l'ottava edizione 2023-2024. Tra pochissimo pubblicità e poi si ritorna in scena, a tra poco. Brothers in the mist, they'll send somebody to save us. I don't know, some skinny anthropologist. She'll take notes and poke and probe, be trying that and trying this, and all the while I'm popping corn, getting tense and pissed. seems to me we got a problem with our size. Homicide, suicide, genocide, it does all seem to coincide. Also, now you wanna alphabet me, that it's all some conspiracy to eliminate our community. But the real tragedy is how we seem to be tripping. A picture I will sketch for you to illustrate the things we do. Frame and hang it in that place, the one you call your mental space. Is there a vibologist in the house? Bring your bag of tricks for the tribe. No more band-aids, please, just prescribe remedies, remedies, remedies. Seize the keys and cancel this treacherous treadmill tour. What we need is a ghetto-rectomy. Get up off your victimology cure. See, the blame game is over. I got toe tags for the man. Put a chill on cat, my brother, and flow like I know you can. Pick yourself a dream and roll it in reality. Fire up a goal, a plan, lace it with morality. Toke it till it's done. Get yourself a 40 ounce of knowledge. Hell, get two and give away one. When people ask you how you deal with stress and strain and strife, tell them I-